Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti al notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale 2024, info@sicilialibertaria.it. Iniziamo con i misfatti clericali. Il Papa chiude il caso di Trevignano Romano. Apparizioni di Maria non sempre vere, dalla Repubblica del 5 giugno 2023. Poi, interessante nella stessa pagina, il caso Orlandi, Emanuela Orlandi. Nuova pista, un ex carabiniere sepolta sotto Castel Sant'Angelo. Il corpo della cittadina vaticana scomparso nel 1983 sarebbe nei sotterranei della Mole Adriana a Roma. I dubbi del fratello. In realtà, secondo la mia ipotesi, non è nei sotterranei della Mole Adriana, ma nei sotterranei dell'ex palazzo del Sant'Uffizio, che era sotto la direzione di Papa Ratzinger già da decenni prima di diventare Papa, e lì è stata messa la povera Emanuela Orlandi. Dal Quotidiano Nazionale del 5 giugno, pagina punto 14, l'Altolà di Francesco, le apparizioni della Madonna non sempre sono vere. Se la devozione mariana è incentrata troppo su se stessa non va bene. Insomma, la Chiesa prende le distanze da questa truffa. Sul prato Vistalago c'erano più forze dell'ordine che fedeli e per la stessa area da tempo ci sono proteste. Torniamo al caso Emanuela Orlandi. Da Cronaca Vera del 6 giugno 2023. Su mia sorella il Papa sa tutto. La speranza ora è che la nuova commissione d'inchiesta svolga fino in fondo il suo lavoro e che la tragica vicenda non venga sfruttata a fini politici in sterili diatribe. Senza mezzi termini afferma che tre pontefici hanno saputo la verità. Sanno che è molto probabilmente sepolta nei sotterranei del Palazzo del Sant'Uffizio, in Piazza del Sant'Uffizio a Roma. Il cui ingresso è in territorio italiano, ma il palazzo è in territorio vaticano. Dal settimanale giallo del 7 giugno, Pietro Orlandi, è tornata la sudditanza verso il Vaticano. Dice il fratello della giovane, temo non vogliano rovinare i rapporti con la Santa Sede. Convocati e in Senato per essere ascoltati sulle ultime novità, avvocati, politici, eccetera. Neanche due mesi prima era scomparsa un'altra quindicenne, Mirella Gregori. Sparì dopo una lezione di musica vicino al Vaticano. Quotidiano Nazionale del 4 giugno. Orlandi, la rivelazione di un ex carabiniere, Emanuela sepolta sotto Castel Sant'Angelo. In realtà è sotto il Palazzo del Sant'Uffizio. Il Consiglio regionale diserta il Pride, continuiamo i misfatti della Chiesa, ci spostiamo da Roma a Milano. Corriere della Sera del 7 giugno, nessun rappresentante ufficiale al corteo del 24 giugno. Le forze reazionarie oscurantiste e clerico-fasciste unite contro i gay. Abusi sessuali su un chirichetto. Definitiva la condanna a 8 anni per un ex parroco di Brindisi. Da Rete l'abuso dell'8 giugno. Atti sessuali su un chirichetto, definitiva la condanna a 8 anni per un ex parroco di Brindisi. La Cassazione conferma che non è una montatura di noi anticlericali, ma che effettivamente i preti sono pedofili. 6 giugno, foto hot e violenze sui ragazzini in parrocchia. Nuovi guai per un parrocchiano pedofilo di Terracina nel Lazio. Avrebbe chiesto foto hot a due ragazzine minorenni. Nuova Zelanda, seconda lettera aperta a Papa Francesco sui preti pedofili, 8 giugno 2023. Sempre da Rete l'abuso. Insomma, in sostanza la Chiesa spagnola ha ammesso più di 200 casi di pedofilia ecclesiastica, quasi tutti di preti, qualche frate, qualche suora. La Chiesa spagnola ha presentato il suo primo documento sugli abusi sessuali da retelabuso.org. Da Tutto Libri, La Stampa, del 3 giugno, si parla di uno dei più grandi crimini, mostruosi crimini della storia della Chiesa, cioè le virazioni dei maschietti per farne sovranisti. Questo crimine avvenne solo nello Stato della Chiesa e nel Regno di Napoli, non avvenne mai nel Nord Italia. E c'è questa rappresentazione a colori del Farinelli, il famoso evirato cantore, che fu evirato lì in Puglia. E un unchi tra violenza e successo, anche il Manifesto Alias del 4 giugno ne parla, sempre con la stessa immagine del Farinelli. Si parla di assiri, babilonesi, perché la castrazione dei bambini fu fatta già in epoca antichissima. E la Chiesa continuò questo mostruoso crimine. Fatto Quotidiano del 5 giugno. Religioni fonte di odio. Si parla di scontri fra estremisti evangelici e destra ebraica. Quotidiano Nazionale del 3 giugno. Padre Georg, il segretario di Ratzinger, sfrattato da Papa Francesco. Dovrà trasferirsi a Friburgo in Germania dal 1 luglio. La Prealpina e altri giornali parlano del bilancio della diocesi di Milano. Finalmente, dopo anni che protesto e mando comunicati stampa ai giornali, la diocesi di Milano si è decisa a fare finalmente una conferenza stampa in cui ha presentato i dati del suo bilancio. Però silenzio sui depositi bancari. Quanti sono i depositi bancari della diocesi? Non c'è scritto. Quanti sono gli appartamenti, i terreni che possiede? Non c'è scritto. E quindi, insomma, comunque qualcosa si comincia a muovere. Dal catalogo di Einaudi, Giorgio Boatting, Inganno di Stato, un nuovo libro che si parla di quattro elementi fascistoidi che la Democrazia Cristiana tenne in gangli importanti dello Stato per decenni. E quindi si parla del clerico fascismo. Tornando un attimo ai preti pedofili, i maestri pedofili in questo caso, continuano tutti i giornali a tacere il nome del maestro di religione arrestato a Milano. Deve essere nipote di qualche pezzo grosso del Vaticano. La diocesi di Milano mostra i conti a bilancio entrate per 51 milioni, però, come dicevo, mancano gli elenchi dei depositi bancari e gli appartamenti. Per la prima volta dopo 1500 anni che la diocesi presenta un bilancio pubblico. È una cosa incredibile, ma è così. Su Umanità Nova, settimanale anarchico, del 4 giugno, si ricorda la vita dell'anarchica Rosaria Matrella. Il 18 maggio Rosanna, all'età di 83 anni, ci ha lasciato. Originaria di Cerignola, la famiglia numerosa e povera, il cibo mancante, per cui la mettono in convento. Ma già qui si manifesta il suo carattere ribelle. Una volta viene punita con un caldaio, grosso recipiente per far bollire l'acqua, legato al collo, per aver giocato invece che lavare le stoviglie. Provocò scandalo e imbarazzo nell'istituto. Un altro grosso scandalo è avvenuto in Vaticano, perché un uomo nudo è entrato nella Basilica di San Pietro. Scatta il rito antisacrilegio, l'altare purificato. Poi il Quotidiano Nazionale del 4 giugno riporta anche questa interessante notizia. Bibbia vietata nello Utah, è violenta e volgare. Lo stop in un distretto scolastico, dopo le critiche dei genitori. In base alla nostra legge non ha valori seri per i minori e la Bibbia sarebbe addirittura pornografica. San Pietro, polacco nudo sull'altare di San Pietro, appunto sacrilegio. Fatto Quotidiano del 4 giugno. Il periodico online Non Mollare. Articolo di Carlo Troilo, Italia e laicità dello Stato. Effettivamente è sconcertante per chi come me è non credente ed anche anticlericale lo spazio che la RAI e le altre televisioni danno alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana e al Papa, e invece di avere un'impronta laica come ci si aspetterebbe da un ente pagato da tutti i cittadini. Lui auspica istituzioni e iniziative di impronta laica e anticlericale. Online è uscito il nuovo numero del periodico, appunto, Ateia di Milano, raccolta di articoli e notizie politiche, culturali, laiciste, atee, agnostiche, eccetera. Segnalo a pagina 8, Inquisizione della Chiesa, 10 motivi per essere contro la Chiesa. Ecco un argomento polemico. Perché essere contro la Chiesa? 1. Beh, per iniziare diamo un'occhiata ai 10 comandamenti. Di questi esistono diverse versioni, ma originariamente alcuni di loro sono diversi, quindi la Chiesa ci frega, diciamo, giocando sulle traduzioni, ci fornisce una versione dei 10 comandamenti che non è quella vera, quella degli ebrei. È uscito poi il nuovo numero del Vernacoliere di Livorno, con interessanti vignette anticlericali. Nuove rivelazioni della Madonna di Trevignano. Ha detto che se ci vogliamo il pomodoro sopra il calzone, perché si dice e si disse che ha moltiplicato le pizze. Ha moltiplicato la pizza, poteva metterci anche una birra media o un chinotto, altra vignetta. Poi un'altra vignetta anticlericale. Il Papa si lagna che gli italiani non fanno più bambini, ma tengono cani e gatti. Ce lo vedi un prete a dover molestare un pitbull, dice l'altro. Poi alla pagina Devoti Gombrio per i consumatori devoti. Attenzione, se la vostra Madonna da giardino non piange entro 60 giorni, c'è il diritto di recesso. Poi altre vignette anticlericali a pagina 22. Eterno riposo dona a lui, o Signore. Il Papa è guarito. Le alte gerarchie ecclesiastiche hanno pregato per lui, sì, perché morisse. Poi alla pagina Le Magnifiche Sette, anche qui una vignetta cattiva contro i preti pedofili che non sto a leggervi perché è molto pesante. Poi abbiamo, ricordiamo che le Iene, canale 6, hanno fatto qualche tempo fa un inseguimento di suore in un box al citofono su qualche misfatto clericale. Il settimanale bollatese Normilano, il notiziario, ricorda quando a Cassina Nuova scoppiò il finimondo, perché il sindaco anticlericale chiuse l'asilo parrocchiale perché per il sospetto di abusi vari. Allora sono andato a vedere il film Rapito, molto bene, è stato recensito anche nella rubrica ebraica Sorgenti di Vita il 4 giugno alle ore 7, ottime immagini, specialmente quella della statua del Papa che crolla, i bersaglieri a Porta Pia, i preti cattivi, i sequestratori di bambini, fanatici, dogmatici, e insomma il tentativo di buttare la bara di Pio IX nel Tevere, insomma non manca niente di più di così, non ci sarebbe da aspettare da un film anticlericale. Concludiamo con qualche slogan anticlericale. Cittadini, unitevi alle manifestazioni contro il concordato e contro il Vaticano, per una società più libera senza intromissioni clericali, per abolire ogni versamento di fondi statali alla Chiesa, per togliere i crocifissi dalle scuole, contro l'ora di religione nelle scuole statali, per il sequestro delle enormi ricchezze del clero. Infine, il libro della settimana, Lelio Basso, testo del 1975, Fascismo e democrazia cristiana, due regimi del capitalismo italiano, il clerico fascismo. La democrazia cristiana altro non era che la nuova veste con la quale si ripresentavano in Italia il grande capitale e le forze più retrive clericali adesso collegate. Con ciò non riducendo la democrazia cristiana al Partito Nazionale Fascista, non si parla di un unico totalitarismo, ma di due regimi clerico-fascisti totalitari reazionari, con una loro continuità sostanziale. Infine qualche data dal mio calendario anticlericale, 11 giugno 2020, alluvione del Lambro a Monza, semidistrutta la statua di San Gerardo, patrono locale, collocata troppo vicino al fiume con la speranza che fermasse le alluvioni, ma non c'è riuscito. 10 giugno 2021, arrestata suora argentina per abuso sessuale su minori nella sede della Congregazione dei Trinitari, eccetera, eccetera. Benissimo, saluti, auguri, alla prossima puntata. Sacra corona, finì la monarchia, finì la monarchia.